parleremo di cinema con Gabriele Vasquez. Prima però, per chi mi chiede da che album era tratto il brano di Siusi, era tratto da Juju. Buonasera Gabriele Vasquez, come va? Buonasera, tutto bene. Allora, settimana impegnativa questa. No. In che senso? Quella che viene o quella che è passata? Quella che è passata. No. Mediamente. E adesso quella che viene, domenica sera, la notte tra domenica e lunedì, Oscar Night. Ah. Chi vincerà? Chi vincerà? Previsione difficilissima. Allora, adesso io ho fatto tutto un mio prospetto. Ecco. Esatto. Sui possibili. Esatto, in tutte le nominations, anche miglior bianco di unghie, capito? Miglior sì. Nota fatta per sbaglio. Vabbè, tutto. No, miglior film? Così subito, cioè io volevo fare tutto un altro per arrivarci. No, ma prego, prego, figurati. Allora, partiamo quindi, partiamo ufficialmente con no, no, partiamo da dietro. Da dietro, ok. Sì. Allora, dalla fine. Categoria che può essere interessante, migliori effetti visivi. Migliori effetti visivi sono in gara. Alice in Wonderland, Harry Potter, Hereafter, Inception, Iron Man 2. Secondo me non c'è gara, vince Inception. Perché è stato fatto un lavoro non solo di digitale, ma anche di effetti pratici, cioè di leve, trucchi, cose molto molto elaborato. E secondo me vince Inception a mani basse. Vi risparmio miglior sonoro, migliori effetti sonori, queste cose qua, eh? E vado diretto. Sonoro. Vai. Prego. Straordinario. E vado direttamente, vi risparmio anche il miglior montaggio, anche se secondo me vince palesemente Social Network miglior montaggio, però lo risparmio. Vi faccio notare che nella categoria migliori costumi, cosa tipica italiana, siamo presenti con Io sono l'amore di Luca Guadagnino, che è nominato per i migliori costumi, ma probabilmente, conoscendo gli americani, vince Alice in Wonderland, perché loro gli piacciono queste cose. Miglior fotografia, ma cioè vorresti dire solo Pacchiani? Un po'. So che potrebbe sembrare una novità che gli americani siano un po' capponi, però. Sì, esatto. Secondo non me hanno molto gusto, diciamo, via. Mi sono fatto questa idea io, sì. Un po' controcorrente. Miglior direzione della fotografia, qui cominciamo a entrare nel vivo, perché sono nominati tutti quanti quei film che hanno ricevuto molte nomination, e quindi quelli che possono diventare probabili assi pigliatutto. Chi è nominato per miglior fotografia? Il Cigno Nero, che è in sala in questi giorni. Inception, Il discorso del re, The Social Network e Il Grinta, che è in sala questi giorni. Allora, Il Grinta dovrebbe vincere, perché la fotografia del Grinta la cura Roger Deakins, che è probabilmente al momento il miglior direttore della fotografia. Vabbè, tu non devi guardare chi è che fa la fotografia. No, infatti ho detto chi dovrebbe vincere. Il film devi guardare, la contenutistica, non i nomi altisonanti. Le tematiche. Quindi secondo me dovrebbe... Aspetta, c'è un'ultima notizia, Tripoli è sotto assedio e sembrerebbe che entro questa notte o domani potrebbe esserci la cosiddetta spallata finale. Ma prego. Dicevo, dovrebbe vincere Roger Deakins, che è veramente, veramente, ma è anche una di quelle persone, quelli tipici che sono talmente bravi che non lo vincono mai. È stato nominato 9 volte e ancora non l'ha vinto. Secondo me non lo becca neanche questa volta. E Ari vince, vince Il Cigno Nero qua, secondo me. Il Cigno Nero si porterà a casa miglior fotografie. Mentre invece, entrando un pochino più nel vivo, miglior film straniero, secondo me lo vince un film che adesso è in sala, che potete vedere, che è Beautiful, con Javier Bardem, film messicano. Secondo me è un po' quella tipologia di film che gli americani piace che sia il miglior film straniero, che non farebbero mai vincere come miglior film, però che categoria stranieri, sì, se lo prendono volentieri. Miglior sceneggiatura non originale, cioè miglior sceneggiatura che viene da un libro, viene da un'altra cosa, la vince quasi sicuramente The Social Network, perché è tratto da un libro molto importante ed è adattato da uno sceneggiatore molto molto importante come Aaron Sorkin, e perché è uno straordinario lavoro, è quasi scontato che lo porterà a casa. Sai che io non l'ho visto. È un film da vedere, tu dici? Buono, assolutamente buono. Vabbè, ma la storia di Facebook, ma verrà raccontata molto molto bene. Poi lui è un gran personaggio, Mark Zuckerberg, veramente, poi scritto con una penna, veramente bello. Invece miglior sceneggiatura originale, cioè quelli che si sono inventati una storia. Un film originale, finalmente. Diciamo chi sono i nominati. Rendiamo onore a tutti i nominati. A quelli che si sono inventati un film senza scrivere, esatto. Senza girare film da fumetti. da libri, da cartoni animati. Another Year, che è un film inglese di Mike Leake che al cinema ora potete andare a vedere, bellissimo Another Year, ma non vince perché non lo fanno vincere Mike Leake. The Fighter, film che esce tra poco su un pugile, storia vera però, è una storia vera però comunque la sceneggiatura è originale. Eh no, però la storia è vera, quindi non vale. Però non viene da un'altra opera, comunque l'hanno scritta, l'hanno romanzata in maniera originale. I ragazzi stanno bene, finché a me non è piaciuto, secondo me non ha una gran sceneggiatura, secondo me non vince. Il discorso del re, attenzione, che può vincere tranquillamente, però secondo me al reparto miglior sceneggiatore originale probabilmente vince Inception, che ti è piaciuto o non ti è piaciuto, è una sceneggiatura molto complessa, molto complicata, molto forte, dura, e secondo me vince. Ma entriamo nel vivo degli attori. Miglior attrice non protagonista, chi sono le nominate? Sono Jackie Weaver per Animal Kingdom, e chiunque dei pochi, perché Animal Kingdom è passato poco, ha visto Animal Kingdom, sa che Jackie Weaver dovrebbe vincere. È la mamma, è la madre di famiglia di Animal Kingdom, è straordinaria, ma non vincerà. Hailee Steinfeld del Grinta, che è la bambina del film del Grinta, anche lei è molto brava. Però non lo so, secondo me non è lei quella che vince. Melissa Leo di The Fighter, brava ma non ce la fa mai, secondo me. Elena Bonham Carter per Il discorso del re, no, non lo merita nemmeno. Amy Adams lo vince, secondo me. Amy Adams in The Fighter, che quando uscirà il film lo vedrete, è la ragazza di lui, probabilmente ce la può fare. Mentre invece, per miglior attore non protagonista, i nominati sono Jeffrey Rush per Il discorso del re, che potrebbe starci, è un papabile sicuramente. Mark Ruffalo per I ragazzi stanno bene, che non ce la fa. Jeremy Renner per The Town, che proprio non ce la fa. John Hawkes per The Winter's Bone, che non ce la può fare. E invece pare, sentendo i rumors, perché io poi vado anche tu catturi anche tutte, capito? Le sensazioni, esatto, i telefoni, esatto. Hai parlato con Robert? Gli ho è detto, stato qui un sacco di giorni, eh. Perché gli ho fatto i complimenti per il risultato al box office di questi primi giorni. Gli ho detto, bravo, già che c'è, ho detto, senti un po', tu che stai là, dimmi un po'. Lui mi ha dato qualche drittuccia, ma insomma. Certo, io il film l'ho visto un pezzetto, sono poi uscito dalla sala. Una cosa. Ha fatto bene, mamma mia. Cioè, recita male. No, lui è una vita che recita male. Cioè, ormai è da metà anni 90 che non fa una cosa degna di se stesso. Ma qui proprio. Io da profano, attenzione, proprio da profano, recito meglio io. Ci sono dei momenti qua che veramente è andato giù. Da cosa dipende che un grande attore, perché insomma lui è stato un grandissimo attore, non nascondiamoci dietro il palmo dito, di una mano, di un dito. Perché un attore recita male? Perché il regista lo dirige male? Ma guarda, allora, sicuramente la direzione del regista è importante, però possiamo dire che nel caso di Robert De Niro ha una statura tale che sarebbe sicuramente in grado, e in passato l'ha fatto in un certo senso, di andare col pilota automatico, cioè sotto un certo standard, per quanto mi dirigano non male, va non mai. Andrò, perché comunque a un certo punto faccio io, insomma, anche. E invece sai, qui proprio andavo sotto. Come i grandi giocatori di calcio, puoi avere un allenatore che non capisce niente, però a un certo punto la pallone da piedi ce l'ho io. A un certo punto qualcosa farò. Invece lui sembra veramente svogliato, sembra che odi il cinema, veramente svogliato. Fa sempre le espressioni da De Niro, quelle che sono sue. Non sperimenta niente, si dedica anche a film. A parte questo, vabbè, questa è proprio la punta massima. Ha fatto il film Manuale d'amore 3 con Giovanni Veronesi per soldi, proprio una cosa becera. Ma anche in America non è che poi si metta a fare delle cose. Quant'è che non sentite un film con De Niro impegnativo? Dice, si è messo, ha fatto questo film, bello impegnativo. Ne parlavamo qualche mese fa. Risale a. No, io direi, cioè, Taxi Driver. Quei bravi ragazzi, sì, insomma, metà anni 90, no, Casino forse è l'ultimo. Metà anni 90 veramente, cioè, e io credo veramente si sia. Ma ne fa tanti, ne fa 2-3 all'anno, se non sbaglio. Sì, ma lui è anche uno che quando poi ci parli, le interviste, le conferenze, non parla, non si. Io penso seriamente sia stufato, cioè, che lavori non per, ne possa più per senso del lavoro, nel senso per vabbè, ma con tutti i soldi che ha fatto potrebbe ritirarsi a vita privata. Ma sai, forse ti piace lavorare, di alzarsi la mattina e sapere di fare qualcosa. Anche perché poi non becca neanche più premi, non viene nominato, è proprio anche, capito, cioè, vedete, non gli interessa più, è una cosa stranissima, è veramente strana. Eppure insomma è stato uno dei più grandi attori con Al Pacino negli ultimi anni. Ci sono stati dei momenti che veramente tra, non so, per dire, proprio per essere stretti, tra l'82 e il 95, ed è un dominio totale comunque. Era lanciato, lanciatissimo, giustamente. Ha vinto qualche Oscar? Adesso non voglio sbagliare, vado a controllare. So che ha vinto qualcosa, ma non vorrei dire le cose sbagliate. Base. Una base musicale in attesa. Perfetto. Sì. Oh, ha vinto qualche cosa, Ha vinto non, come non protagonista per Il Padrino parte seconda, in cui faceva Don Vito Corleone da giovane. Sì, Oscar come non protagonista. Mentre invece ha vinto l'Oscar come protagonista. E chi l'ha vinto come protagonista? Al Pacino? No, chi c'era lì? Quell'anno, nel 74? No, è lì. In che senso lì? Che intendi per lì? Cioè, il padrino in ha vinto quel solamente film. Cioè, non ha no, vinto... allora, il primo padrino ne ha vinti un sacco. Il secondo, che è quello dove c'è De Niro, non mi ricordo se ha vinto. Sto guardando al volo, se c'è qualcosa. De Niro. No, non vinse gli attori. Vinse miglior film, ma non vinse attore. In nessun modo, no. E vinse miglior regia in parte secondo, cioè Coppola. E ha vinto poi miglior protagonista, come mi ricordavo, per Toro Scatenato. Ah, che è un bel film, devo dire. Cioè, gli era venuto bene. Gli era venuto molto, molto bene, sì. Nominato ovviamente per Taxi Driver e Il Cacciatore. Per Taxi Driver non ha vinto. No, nomination. Vediamo chi vinse quell'anno. Vinse Peter Finch per Quinto Potere. È un film che gli anni, con gli anni è stato un po' dimenticato, ma che all'epoca fu una botta grossissima. Sì, sì. Però ad oggi non se ne parla più. È un film che è stato un po' dimenticato. Ma torniamo alla cerimonia. Ah, di quest'anno. Sì, la cerimonia, vai. Dicevamo, eravamo arrivati al migliore attore non protagonista. E stavo dicendo, molto probabilmente lo vincerà, almeno i rumors dicono così, lo vincerà Christian Bale. Christian Bale per il ruolo di non protagonista in The Fighter. Lui sempre è... questo film che non abbiamo visto. Che esce tra poco. Ma tu l'hai visto? Di Pugilato, sì, io l'ho visto, ma non ne posso parlare fino a lunedì. Ah, vabbè. È un film sul pugilato moderno. Posso raccontare la trama. È la storia vera di questo pugile, che era fratello di un pugile tra virgolette famoso, che vinse con Smokey Robinson e quindi ebbe un momento di fama. Lui ma è il cantante Smokey Robinson? No, pugile. Era un pugile. E ebbe un momento di fama questo pugile. Il fratello più piccolo vive un po' la sua ombra. È un pugile così un po' di poco conto, ma ad un certo punto potrebbe avere la grande occasione. Vabbè, basta così. Miglior attrice protagonista. Ah. Qui non c'è lotta, cioè qui ha già vinto. Ce l'ha già in mano, lo si dice da una vita, già ce l'ha in mano, già è suo. Ma chi? Natalie Portman per Il Cigno Nero. Il Cigno Nero è un film bellissimo che dovete andare a vedere assolutamente. Ma quello d'amore, film... le no, cose. No, è un film durissimo. Hai visto The Wrestler? Sì, sì. Stesso regista, stessa idea di film. Macchina a mano, colori realisti, cosa? Mondo della danza, lei ballerina classica, deve fare il Lago dei Cigni, diventa completamente pazza. Ah, nel sì, panno. È vero. Ed è c'è quella stessa ossessione che c'ha in The Wrestler per la carne, lui che si fa male, lui che... Straordinario, un gran film. Ed è, a differenza di The Wrestler, che è molto realista, questo qui è un film in cui lei impazzisce e tu nel pubblico impazzisci appresso a lei. Nel senso che se lei vede cose che non ci stanno, anche tu vedi cose che non ci stanno. E per tutto il film non sai mai cosa è vero e cosa si è immaginato lei. Veramente un capolavoro. Miglior attore protagonista. Sono candidati Javier Bardem per Beautiful, Jeff Bridges per Il Grinta, che non lo vince mai perché già l'ha vinto l'anno scorso, Jesse Eisenberg per The Social Network, che dovrebbe vincerlo ma non lo vince mai perché è troppo giovane, figurati se lo fanno vincere. James Franco per 127 ore, che non lo vince mai perché presenta la cerimonia, figurati se gli americani fanno quella cosa che lui quello che presenta si piglia l'Oscar. Niente. Mai. E lo vince, anche questo è quasi sicuro. Cioè, per esclusione sei andato. No, vabbè, potrebbe vincerlo Javier Bardem, potrebbe, ma conoscendo l'Academy è quasi sicuro che vince Colin Firth per Il Discorso del Re, perché è proprio il ruolo che all'Academy gli piace, si commuovono, gli piace tanto. Miglior regia, e qui è proprio difficile. Qui va, getto il cuore oltre l'ostacolo. E dico Il Cigno Nero. Darren Aronofsky vince miglior regia col Cigno Nero, mentre invece miglior film, non leggo le categorie perché sono mille, quest'anno ne hanno candidati 9 a miglior film. Miglior film sarà Il Discorso del Re. Bene, passiamo all'Italia. Ma torniamo al nostro paese. No, nostro passiamo paese. All'Italia. Chi abbiamo portato agli Oscar? Niente. Abbiamo detto il miglior costumi, l'ho detto prima, cioè, ho dimenticato il titolo. Miseria. Sì, sì, abbiamo capito. Lui. No, va bene, va bene così. Allora, io sono l'amore, migliori costumi. Ecco. Invece quello che avevamo candidato, cioè la prima cosa bella, il film di Verzi, che era il nostro candidato, non è arrivato nelle 5 nomination del miglior film straniero. Quindi niente. Quant'è che non vinciamo un Oscar noi? Ecco, Benigni. La vita è bella. Ah già, sì, sì. Vabbè, allora torniamo a bomba e torniamo in Italia a questo punto. Come dicevamo, questa settimana l'uscita più grossa, quella che già sappiamo che farà incetta del box office, perché oggi già è previsto che sfondi tutto, sarà Manuale d'amore 3, il terzo capitolo della saga di Giovanni Veronesi, che è, devo dire, particolarmente brutto, particolarmente brutto. E sì, io a metà primo tempo sono uscito. Anche prima. Sì. E come hai fatto a uscire a metà primo tempo se poi De Niro sta alla fine? Hai detto che l'hai visto? L'episodio finale? No. Era un rimontaggio, era una versione rimontata. Avanti veloce. Sai che c'è un cinema dove... amico del proiezionista. Ma che cavolo, tu non approfondire. Ah, mi chiedevo. Non approfondire, no. Ma andiamo avanti, diciamo, Manuale d'amore. È un film come gli altri episodi di Manuale d'amore. Siamo due idioti. Che vergogna. Dicevo, Manuale d'amore, come gli altri due precedenti film Manuale d'amore, è un film ad episodi. Il primo episodio è l'amore in età giovanile, ma proprio questo è dichiarato, è il titolo, l'amore in età giovanile, e vede Scamarcio, Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti al mare, vabbè, insomma, è una storia di paese, che sembra uscita da un film di Pieraccioni, anche perché Giovanni Veronesi ha contribuito a fare la sceneggiatura di molti dei primi film di Pieraccioni, per cui le atmosfere ricordano. Il secondo episodio è quello con Carlo Verdone, ed è la storia di uno speaker di telegiornale, come fosse Enrico Mentana, uno speaker di telegiornale che ha un'avventura con una pazza che poi lo perseguita. Anche questa è abbastanza dimenticabile, se non fosse per poi quelle solite improvvisazioni da Verdone, che a prescindere dal copione che gli danno, lui poi rifà e rifà le scene per generare la battuta improvvisata, la battuta che gli viene così, e quelle obiettivamente poi sono divertenti, ha dei momenti carini il segmento di Verdone, però insomma niente di trascendentale. E poi si chiude con l'episodio Robert De Niro, perché è un film a episodi. Si chiude alla fine Robert De Niro, Monica Bellucci, Michele Placido, in cui tra l'altro Michele Placido mette le mani alla gola di Robert De Niro, vabbè, cose incredibili, cioè, vabbè, manco fosse Gio Pesci, vabbè. Aspetta un secondo, sì. Raccordo corsia interna direzione Aurelia, che succede, avete notizie? No, sto vedendo anche su Octo Telematics, sì, dall'uscita Fiumicino fino alla dopo l'uscita dell'Aurelia è tutto bloccato corsia interna, non ne sappiamo il motivo, probabile un incidente. Che sì, ci saranno ripercussioni anche, insomma, ostienze, eccetera. Va bene, chiedo scusa, prego. Dicevo, la storia di quest'ultimo segmento con De Niro è che lui è un professore d'arte, in pensione, che si è spostato ed è venuto a vivere a Roma. Che messaggi straordinari. Visto che è andato in pensione, ha smesso di vivere in America ed è venuto a vivere a Roma. È vedovo, perché poi in questi film non si può mai, cioè, sempre vedovi, perché se deve tradire a una certa età deve essere vedovo. Ed è molto amico del portiere del suo stabile, che è Michele Placido. A un certo punto arriva la figlia del portiere dello stabile, che è Monica Bellucci. Che sceneggiatura rutilante. Il bello viene ora. Che gli avevano raccontato la figlia del portiere dello stabile è una grandissima professionista in Francia, a Parigi. Lei vive a Parigi, dove fa un lavoro pieno di soddisfazioni, ma che a un certo punto, sorpresa delle sorprese, si rivela essere una balla che lei ha raccontato al padre, perché in realtà fa lo striptease, è una stripper. E neanche a dirlo, Robert De Niro si innamorerà di lei e ci saranno dei momenti altamente ridicoli. Non so se sei arrivato o sei uscito dalla sala prima quando lui fa jogging. Sì, quel pezzettino l'ho visto. Manco Ben Hill, veramente. Una scena in cui lui fa jogging per farsi vedere atletico agli occhi di lei e zompetta ridicolmente, una cosa veramente, veramente terribile. Ma nonostante potrò dire tutto quel che voglio, ma questo film incasserà tantissimo. Non ci saranno. Robert De Niro, Carlo Verdone. Mancavo solo io. C'è una cosa strana, una cosa veramente strana. Allora, dovete sapere che i titoli alla fine dei film, quelli che scorrono in verticale, diciamo, i classici titoli di coda, sì, sono contrattuali, cioè sono argomento di contrattazione nel momento in cui si fa il contratto per un film. L'attore, ma anche gli altri, però diciamo principalmente gli attori, pretendono, giustamente, poi che è una questione importante nel contratto, di sapere dove saranno nei titoli di coda. Per questo poi i titoli di coda sono verticali, cioè sono in ordine, c'è un primo, c'è un secondo, c'è un terzo, sono diciamo una gerarchia. Questa è la prima volta nella mia vita che vedo nei titoli di coda che scorrono in verticale due nomi uno accanto all'altro, cioè in orizzontale. Erano tutti in verticale, uno sotto l'altro, ma solo due, i primi due, erano uno accanto all'altro. E chi erano? Robert De Niro e Carlo Verdone. Evidentemente deve essere successo che Carlo Verdone ha un accordo con la Filmauro per la quale lui farà un certo numero di film con loro, ma deve essere il primo dei titoli, sennò questo è l'accordo per fare questi film. E poi ad un certo punto deve essere entrato De Niro, che deve aver detto: regà, cioè non è che io posso essere io non il è secondo. Che sono chissà chi. Esatto, cioè io non è che posso venire a fare un film in Italia e poi mettere il secondo nei titoli di coda, no? E quindi devono essere, per adeguarsi, devono aver trovato questi escamotage di metterli entrambi primi. Quindi è la prima volta che succede una cosa del genere. Almeno che io lo vedo, io non mi era mai capitato di vedere una cosa del genere. E dir che ne ho visti! Me lo immagino. Vabbè, insomma, film di questa settimana, allora, dopo no, sta cioè, tristezza allora, no, lì, no, c'è Manuel un d'amore. Film molto molto interessante che è uscito questa settimana, che è il nuovo film di John Landis. Per quei tre che non sanno chi è John Landis ha diretto una serie di film minori tipo Blues Brothers, mamma, Animal House, Una poltrona per due, un lupo mannaro americano a Londra, Tutto in una notte. Ne sto dimenticando sicuramente qualcuno di fondamentale. Il film è pazzesco, Tutto in una notte. Bellissimo, pazzesco. Film bellissimo. Un regista straordinario che si è incredibilmente perso. Erano anni che non azzecca un film. Ha fatto delle cose totalmente trascurabili per quasi tutti gli anni 90, veramente trascurabili. Ora è tornato con questo Ladri di cadaveri, che è un film fatto in Inghilterra, quindi non in America, che si è fatto quasi con i suoi soldi, quasi. E com'è? Allora, non è all'altezza di... No, ma non è assolutamente una porcata. È un film molto carino, molto divertente, con quell'umorismo tipico di John Landis, che racconta una storia vera che è stata la base anche già di altri film come La Iena, un film di Robert Wise dagli anni 40. La storia di questo profanatore di cadaveri che vendeva cadaveri alla scienza medica nella Edimburgo di inizio 800, se non sbaglio. La Iena di Robert Wise era un film horror quasi, questo invece è un film da ridere, è una commedia. Poi chiaramente, come fa sempre John Landis, come già ha fatto nel Lupo mannaro americano a Londra, è una commedia che è anche altro e tanti generi insieme. Ci sono Simon Pegg e Andy Serkis, sono i protagonisti, ed è un film, diciamo che è il film di questa settimana che io consiglio. Stamattina Sollazzo, che lui sì è un critico, diceva tutto il contrario, elogiando De Niro. Com'è possibile che due giovani e brevi critici siano così discordi? E così anche un altro ascoltatore dice la stessa cosa. Ma questo è il bello di questa radio. Esatto. Dove ognuno esprime il proprio punto di vista. L'unicità, direi, di questa radio. Dove questa è l'unica radio, diciamo, possiamo dire, dove ognuno è pagato da una persona diversa. Boris, io dalla Boris è pagato da uno e l'altro. Esatto, per cui... Bene. Esce il film truffa della settimana. Che cioè, vuol dire? Quel film che tu dici: ah guarda, questo è figo, questo lo vado a vedere. E invece no. Niente, lo so già, 127 ore. Ma no, ce n'è uno più. Questo è mezzo truffa, 127 Manuale ore. Manuale d'amore 3. No, Unknown. hanno un filmone di botti, inseguimenti, perdite di memoria, finto Born Identity, finto Frantic, con Liam Neeson. Che si racconta? Si racconta di uno stimato professorone medico, che è Liam Neeson per l'appunto. Telefono. Che va, va per un convegno. Va per un convegno, sì, proprio così, a Berlino. Fa un incidente con la macchina, batte la testa, perde la memoria, si sveglia nell'ospedale di Berlino, nessuno lo riconosce più. Cioè lui dice, io sono il professor A, ti dicono, no, non è lei, è quest'altro signore qua, un altro. Va dalla moglie, dice, cara, ma io sono tuo marito. No, non ti conosco. Così. E si trova a Berlino senza una lira, senza niente, sperduto. Conosce questa tassista con cui ha fatto l'incidente, che è una ragazza bellissima, ovviamente, come accade in Frantic. E cercherà di ricostruire la sua memoria, che è un po' la dinamica del Born Identity. Chiaramente si instaurerà una storia di mega spionaggio, come ovvio che sia. È un filmone truffa perché? Allora, partiamo dal presupposto che questi film americani non sono film plausibili. Nessuno gli ha mai chiesto di essere plausibili. Sono sennò... film. Esatto, se no non ci sono invenzioni, sì, non è film realtà. Cioè, non è che uno tipo butta... ladri di biciclette. Esatto, questi... esatto. E nessuno gli chiederebbe mai di essere plausibili. Però c'è un limite anche all'implausibilità. Ma dai, ma. No, accadono. Allora, accadono delle cose, veramente. Cioè, io non un po'. Gente che tipo dal terzo piano di un palazzo con le finestre chiuse viene pistata e quello che sta in strada lo sente, dice no, arrivo, arrivo. Un uomo di 160 anni che come Liam Neeson, che è un mega eroe, un duro d'altri tempi, con una faccia per nulla credibile. Insomma, Unknown ha dei momenti in cui anche la platea di critici, che ormai è gente ingrigita dalla vita, che non ride neanche ai film comici, capito? Perché gente che ormai è distrutta, non ce la fa più, gli veniva da ridere capito, involontariamente. Cioè risate sul film e non per il film. È veramente una truffa senza appello, secondo me. Ma me lo vedrò. Voglio vedere dopo quanto esci dalla sala di questo. Ci fermiamo. Però vedi, tu sei veramente devo fare questa tua lode. Perdonami se ti lodo così davanti dimmi, a tutti. Dimmi. In questo periodo di crisi del cinema, sì, una persona come te che crede così tanto nel cinema, è vero, da pagare il biglietto e uscire prima. E uscire all'inizio, dopo 10 minuti. È una cosa che io ho incredibile. Ma io sono ammiro. Fatto così. Generoso di carattere. No, stasera non c'è il Club Enta e Anta, tornerà a marzo se tutto va bene. Allora, su Unknown siete d'accordo? Sto per andare a vedere il Cigno Nero, che dici, vado? De corsa, alla grande. Esagerato, mi spacchi il microfono. Film. È un gran film. La donna che canta, cos'è? La donna che canta è un film che devo dire a me non è piaciuto. In due parole, è un film sul, diciamo, macro categoria conflitti medio orientali, per dire. Ha un espediente di sceneggiatura alla fine straordinario, cioè finisce in una maniera fantastica. Il resto del film però è altamente dimenticabile. Oh, passiamo invece alla box office. Box office, questa settimana rimane in testa, come previsto, Femmine contro maschi, che adesso sarà spazzato via da Manuale d'amore 3, però rimane in testa Femmine contro maschi. A sorpresa, io ne sono contento perché ne avevo parlato bene, è un buon film per la sua categoria, chiaramente, Amore e altri rimedi, segno che San Valentino funziona ancora, a San Valentino il film d'amore va bene, e vera grande sorpresa, perché io mi aspettavo una debacle rara, Il Cigno Nero è andato benissimo, è arrivato terzo, ha fatto 1 milione. Adesso, se tutto va bene, mi vince qualche bell'Oscar, compreso Natalie Portman, e dovrebbe andare ancora meglio settimana prossima. Il Grinta anche al quarto posto. Grinta però al quarto posto non è andato bene, cioè per il Grinta forse poteva andare meglio, però anche qui sia il Grinta che il Cigno Nero sono uscite, questo è riscaldamento la prima settimana, perché adesso che ci sono gli Oscar, cioè per questo li fanno uscire ora, perché ci sono gli Oscar, sanno che verranno nominati, quindi aspettano a farli uscire e contano al secondo weekend o anche al terzo di sfruttare la scia dell'Oscar. Poi c'è Sanctum, poi Immaturi, che ha totalizzato 14 milioni, mica pochi. È andato proprio bene, con mio dispiacere è andato bene, non posso dire nulla. Oh, abbiamo Piranha 3D dal 4 marzo al cinema. Oh, ti giuro, non vedo l'ora di vederlo. Perché è diretto da Alexandre Aja, che è questo francese straordinario. Forse, guarda, adesso vi faccio questa affermazione veramente... Visto che lui ormai è al quarto quinto film, lo si può dire, perché al quarto quinto film è una realtà, è probabilmente il più grande regista horror di oggi, degli ultimi 6 anni, 7 anni, più o meno, gli ultimi anni. Sicuramente. Poi in 3D. Esatto. Se vi volete vedere, se state pensando, ma cosa dice questo, il film horror, cosa dice? Scaricatevi legalmente. Scaricatevi legalmente, non voglio che. O andate a noleggiare. Alta tensione è il primo film che lui ha fatto in Francia. Haute Tension è il titolo originale. Un horror pazzesco, il vero, come si fanno i film horror veri. Cosa che non fa più Dario Argento da purtroppo anni. Non fa più. Questo chiaramente dopo Alta Tensione, gli americani sono andati a prenderlo con un cellulare, l'hanno portato immediatamente, l'ha preso per i capelli, portato in America, gli hanno fatto fare un remake sicuramente, gli hanno fatto fare Le colline hanno gli occhi, che secondo me è il remake migliore dell'originale. L'ho visto, bello. Molto bello, lui è molto bravo. E adesso fa Piranha 3D, che io non vedo l'ora di vedere, perché cavolo, finalmente qualcuno con una mano forte. Ci sono delle proteste anche in Giordania e Mauritania, quindi il Medio Oriente veramente sta esplodendo. L'effetto domino, come si dice, staremo a vedere. Scusa, ma sono notizie che arrivano, se no, figuriamoci. Essere date. Fantastici viaggi di Gulliver, 2,8 milioni. Non benissimo, poteva andare meglio. Ma insomma, invece, questa settimana esce anche un film che tu prima dicevi potrebbe essere il film truffa. Un po' e un po'. È 127 ore. Era un film molto atteso. Il regista è uno di quelli amati, cioè il regista di The Millionaire, il regista di Trainspotting, Piccoli amici di tra amici. È insomma Danny Boyle. Danny Boyle che è reduce da The Millionaire, che è stato un successo fortissimo, vi ricorderete, ha stravinto gli Oscar. È un film che è andato benissimo da noi, ma in America, poi in India, che è un mercato grandissimo. Insomma, adesso, ora come ora, Danny Boyle è un regista importantissimo che può permettersi qualunque cosa. E quindi cosa ha fatto? Ha fatto, secondo me, una cosa giusta. Nel momento in cui arrivi a questo livello, per cui qualsiasi film farai dopo un botto del genere non sarà a livello e puoi permetterti tutto, fai una cosa come piace a te, una cosa rischiosa, una cosa audace, una cosa sperimentale. 127 ore è più o meno un film sperimentale. Racconta di questa vera storia di questo ragazzo appassionato di escursioni nelle montagne tipo Grand Canyon, tipo quei tipi di luoghi americani, che appunto va in una di queste clamorose escursioni dove va senza cellulare, senza niente, gli si incastra una mano tra due rocce, rimane totalmente incastrato ed è bloccato e non ha modo di uscire per 127 ore. Rimarrà lì, quindi tutto il film è quest'uomo che è immobile, è bloccato e cerca disperatamente di liberarsi. Non vi dico, è noto come fa, perché è una storia vera, quindi è noto. Io non ve lo dico comunque come riuscirà a liberarsi alla fine. Però essendo tutto centrato su un uomo fermo, è un film molto di regia e Danny Boyle è un regista molto bravo, molto forte, e quindi il personaggio è fermo ma il regista gli gira intorno, diciamo. E insomma, secondo me però purtroppo alla fine 127 ore è più che altro una serie di esercizi, di idee, di cose buttate lì, ma non è un gran bel film. Allora passiamo alle prossime uscite della prossima settimana. Cosa ci riserva la prossima settimana? Niente proprio. No. Allora, cioè, anzitutto c'è The Fighter, che è questo film sul pugilato di cui io ancora non posso parlare, ma che Basta, però sta agli Oscar, però è un fatto, è una notizia. A parte che esce una cella in due, cioè quel film con Enzo Salvi e dell'altro, è un film, deve essere un film incredibilmente romanesco, perché ci sono due comici romani che sono Enzo Salvi e Maurizio Battista, grandissimi. Esatto. E già il cartellone è completamente idiota, potrebbe essere veramente un super classico del trash, potrebbe diventare in un attimo, quindi non vedo l'ora di vederlo, una cella in due, soprattutto perché io li vedo senza pagare, perché all'anteprima stampa non si paga. Io invece pago. Bravo, paghi alle volte esci anche. Esco anche prima. Esce, diciamo, settimana prossima The Fighter, esce Macella in 2, esce Piranha 3D ed esce un film molto particolare, in cui adesso io confesserò che sono, devo dire questa cosa e confesso che sono di parte. Cioè, allora, La vita facile è il nuovo film di Lucio Pellegrini. È un film tuo amico. aspetta, no, morivano gli amici, morivano, perché ci sono degli amici in questo film, per cui quindi prendete questo giudizio con tutte le pinze che volete, ma io sono serio e mi espongo, ci metto la faccia io. Bravo. La vita mi piace facile... così, bello, bravo. Arrogante quasi. La vita facile è il nuovo film di Lucio Pellegrini con Pierfrancesco Favino, Vittoria Puccini e Stefano Accorsi. Lui è un grande Favino, grandissimo. E qui tra l'altro fa un ruolo veramente che chi è di Roma veramente può apprezzare, è veramente minuzioso, cioè lui ricostruisce una particolare tipologia di romano, ma con una minuzia anche nell'uso dei termini, alcuni termini un po' desueti che ti fanno capire che lui ha i soldi ma probabilmente i genitori no, e probabilmente i genitori venivano dai paesini vicino a Roma, non proprio da Roma. Guarda, è veramente veramente preciso nel cesellare questo personaggio, però è una cosa che apprezzano quelli di Roma chiaramente. E che è un film che racconta di questo medico che va in Africa a trovare un suo amico che da una vita lavora in Africa a contatto con i bambini. Lui, questo qui che va a trovarlo, non è proprio il tipo d'Africa, è più il tipo da grande studio, sì, da grande studio, clinica privata. Infatti non si capisce perché vada, poi nel film lo capiremo perché è andato in Africa, è una commedia. Allora, dicevo che sono di parte perché a questo film lavora Walter Fasano. Walter Fasano è il più grande montatore italiano, e questo lo dico non perché sono di parte, ma la verità. È il più grande montatore italiano. Ha montato Io sono l'amore, che è un film di montaggio pazzesco, e ha montato anche questo film. Ed è, secondo me, un film che ha un montaggio incredibile. Voi direte, sì, ma chi lo nota il montaggio? Solo tu noti il montaggio? No, perché il montaggio è quello che dà il ritmo al film. Il montaggio non è solo mettere le scene una accanto all'altra, è anche decidere come tenere un sottofondo. Cioè, se io metto un sottofondo musicale e poi stacco e c'è un flashback e quel sottofondo continua, è una scelta di montaggio. Il montaggio è anche l'inizio di questo film, ha tutta una serie di momenti in cui i due personaggi a distanza, uno mette in moto la macchina, uno mette in moto la moto, e così comincia il racconto con i rumori che poi diventano narrazione. Insomma, è un film veramente, è una commedia poi, non è che è un film impegnato, non vi immaginate, ma ha un ritmo straordinario per quel lavoro di questo straordinario montatore. Perché sono di parte? Perché è un insegnante nella scuola di cinema dove lavoro anch'io. Ecco, lo so. Mamma però mia. Io non posso non dire la verità delle cose. Vabbè, ma insomma potevi tenertela per te sta cosa. Ma io sono fatto così. Ma vedi sai qual è? Busta gialla. Sai qual è quello che mi diversifica da questi sì, orrendi? Qual è? È che io non direi mai che questa scuola è la NUCT che sta a Cinecittà, certo. E che le iscrizioni aprono tra poco. È una cosa che non direi mai. Stasera 22:50 Rai 4, alta tensione. L'avrei ricordato io nella sezione televisione, ma bravi ti che avete ricordato. Fregato. Bravi, ma questo è segno che l'ascoltatore capisce, capito? Questo è sono contento quando è come il maestro che è contento quando l'allievo lo supera. Ma ci sono rumors su World Invasion? Sarà che una sorta il film di Skyline? No, dovrebbe essere quello di Spielberg, se non sbaglio, perché c'è un film con un titolo simile in preparazione, ma vado a controllare per non dirvi castroneria. Intanto vedo che c'è un SMS che dice: ho appena visto Una tomba per le lucciole, che meraviglia. Sì, è un film, è probabilmente il film più triste della storia del cinema, ma è bellissimo, bellissimo. Che film! Il titolo proprio, mamma mia. Ma guarda, io penso che è stata la prima. No, non ho mai pianto tanto. Ho avuto, non scherzo, non è un'esagerazione, ho avuto difficoltà ad addormentarmi per il dolore nella pancia, proprio il dolore, il vero dolore. È un lungometraggio d'animazione. È un lungometraggio d'animazione giapponese degli anni 80 di Isao Takahata. E che dire, è bellissimo, è la storia dei due fratelli. Ma insomma, se io poi non ho mai fatto mistero di essere un grande amante dei film che commuovono, delle tragedione, mi piacciono proprio, per cui in questo sono. Però ragazzi, che film straordinario, madonna. Un bel film sugli indiani del Nord America da vedere in download. Mazza, che non si abballa con i lupi, o piccolo grande uomo. Proprio preciso, sicuramente preciso. Fammi pensare, indiani in Nord America, ti direi, vabbè, però è scontato, però ti direi il grandissimo Ultimo dei Moicani, versione Michael Mann. O mi suggeriscono la retrovia e Soldato Blu, però a me non è piaciuto tanto Soldato Blu. Però comunque è un consiglio anch'esso. Corvo Rosso non era il mio scalpo. Mitico, non ci sono gli indiani, ma è mitico, anzi c'è un indiano. C'è un indiano, scuola. Come sì. No? Mitico. A Sollazzo gli avranno detto che De Niro è del Napoli. Non lasciarmi, mi chiedono informazioni. Non lasciarmi? Non, aspetta, non ho capito, non ho presente qual è. Ci sono film di Bruce Willis in uscita, tipo Die Hard. Adesso rispondo a tutte le domande. Allora, per quanto riguarda sia io non vado, lasciarmi, io leggo, che World Invasion, devo dire che no, non ho notizie di nessuno dei due. Lo so, sono film di cui veramente non so che dirvi. Altra attenzione, è una stupidaggine mostruosa, scontatissimo, pieno di cliché, un vero e bellissimo film horror, è The Descendant. No, non sono d'accordo. Per me Alta Tensione è un film pazzesco, evidente la quintessenza dell'horror moderno. Ecco. E l'ho detto. Oh, quando uno proprio. Allora, Bruce Willis sta lavorando a Die Hard 5. Beh, è un pazzo a voler fare Die Hard 5. Sarà prossimamente nel cast di Mercenari 2, perché ci sarà un Mercenari 2. E invece, più a uscita ravvicinata, probabilmente tra poco lo vedremo in Red, che è un film che dovrebbe uscire tra poco. Oh, qui mi chiedono invece di risolvere questo dilemma. Allora, puoi chiedere al critico se ricorda un film anni 80 o 90, la storia era di un bambino che era stato perso nella foresta e cresciuto dai lupi, e quando lo ritrovano ha moltissima difficoltà a reinserirsi. L'attore mi pare fosse uno dei Belushi o quello di Lost in Translation. Vediamo è un po'. Demenzialissimo, l'ho visto una sola volta molti anni fa e ho riso da pazzi. Adesso provo a vedere, così al volo non mi dice nulla. Hai un sacco di domande a cui dare risposte, eh? Incredibile. Qui mi chiedono i Rammstein, ma stiamo facendo cinema. Noi ci accingiamo a vedere Equilibrium, lo conoscete? No, mi spiace. Non sai niente. Oh, ci sta andando malissimo. Uomo bianco va col tuo dio, invece, un bel film di indiani del Nord America. Già da lontano 1985, che sarebbe stato Brasil senza Robert De Niro? Confermo. Allora, rispondi a tutte le domande. Cioè, difficilissimo. Cosa? Allora, il film sui lupi purtroppo non so che dirti. Ho provato a fare delle indagini chiaramente sommarie, perché così è, ma non te lo so dire. Gli altri ho risposto, che mancava poi? Ah, non lo so, io l'ho già dimenticato. Ah, notizie su Macete? Rimane il 10 aprile, no? Ah, fissato il 10 aprile, sì, fissato. Meno male. Del numero dei numeri 4 che mi dici? No, proprio no. È un pastone di tante cose già viste, un po' Highlander, un po' Terminator, un po' X-Men, e alla fine non è neanche in grande intrattenimento, direi proprio di no. Il top dell'horror di tutti i tempi rimane Tetsuo. Di Tsukamoto, che gran film Tetsuo. Io, se sei appassionato di Tetsuo e Tsukamoto, ti consiglio Tokyo Fist di Tsukamoto, che è un altro film pazzesco. Aspetta che me lo scrivo. Io ce li ho tutte e tre i Tetsuo. I Tetsuo, tre bellissimo tra l'altro. Assurdo pure quello. Bene. Che ne pensi del film sul treno a 30 secondi dalla fine? Bellissimo. Bellissimo. Da sceneggiatura di Kurosawa con un John Voight d'altri tempi. Bellissimo. C'è la famosa battuta. A un certo punto quello che sta con John Voight, che è una bestia, John Voight è veramente una bestia, gli dice: ma insomma, ma che schifo, ma sei un animale? E lui dice: no, molto peggio, sono un essere umano. Vasquez, si apprezzi il rebuild di Evangelion? Allora, Evangelion lo conosco poco, lo conosco ma non così tanto. Lo apprezzavo abbastanza, però non sono poi andato avanti, quindi non sono così raffinato. Che ne pensi della musica nel cuore? No, non mi è piaciuto. Vabbè, vediamo alla televisione, ormai ci siamo. Televisione, sai che non c'è niente? Cioè, ho guardato, non c'è niente, c'era solo Alta Tensione, ma me l'hanno anticipato. Equilibrium, il Cate? Che sarà il Cate? Della pista dell'Eur Serie B, ma da vedere. Film di fantascienza in uscita? Vediamo subito, li scorro rapidamente. È vero, un uomo chiamato Cavallo. Senz'altro. Quello, mamma mia. In uscita di fantascienza no, almeno a breve non abbiamo niente. c'è un cartone animato, ma insomma una pregnaccia della Disney, niente di che. Vabbè, novità invece per 007? Ma invece mi chiedevano un altro paio di cose, c'erano due domande interessanti. C'era miglior film di Jack Black? Sì, miglior film di Jack Black, sono due. Solitamente tutti dicono School of Rock, ma io personalmente ti consiglio Tenacious D e Il Destino del Rock, che è un film incredibile. Non hai risposto alla mia domanda, ma vabbè. Qual era la tua? Novità su 007. Guarda, novità non ci sono, però io sento sempre parlare di 007 come il si farà. Cioè ormai è ufficiale che si fa, però non ci sono ufficialmente novità. No, questo lo so pure io. Però nell'ambiente ormai tutti quanti sono sicuri che il prossimo 007 si fa. Pare sì, anche in 3D. Ma non lo so, questa non ci credo finché non la vedo, eh. A me è arrivata voce, gira voce che... Ma ti ha chiamato la famiglia Broccoli direttamente. Esatto. Ah, Il Rito di con Anthony Hopkins. Oh, allora devo vederlo questo, che dovrebbe essere un horror, ma a me mi sa tanto di fregnaccia, mamma mia. Invece ho visto il film sotto, che è Rango. Rango è un film d'animazione di Gore Verbinski, che è il regista di The Ring e I Pirati dei Caraibi. Pirati dei Caraibi, che è una saga che è andata in vacca, ma il primo film era molto molto carino. E Rango è un gran bel film, è un vero western. È strano che esca insieme a Il Grinta, che escono così più, cioè il Rango esce tra due settimane, che insomma comunque a distanza ravvicinata escano due western dopo una vita che non ne uscivano. Ed è un vero vero west molto Sergio Leone, cioè veramente un grandissimo omaggio a Sergio Leone. A un certo punto, cioè, addirittura in Rango si vede Clint. Ma va. È un cartone animato, una caricatura, ma c'è lui. Perché il protagonista a un certo punto ha un'allucinazione, gli compare uno spirito e gli compare nella forma a lui più familiare, che è Clint, proprio vestito come lo straniero senza nome, col poncio. Oh, invece The Next Three Days con Russell Crowe. Con Russell Crowe. Allora scusate, devo fare una correzione. Io prima ho sbagliato io. Mi è stato chiesto informazioni di non lasciarmi e io ho cercato male. Quindi è stato un errore proprio mio, ma proprio di logistica, capito? Quegli errori di... In realtà capita anche ai migliori. Sì, nessuno lo direbbe, però capita anche, eh? Il 25 marzo esce questo The Next Three Days. Uscirà in febbraio marzo. No, 8 aprile. Aprile. Io sono molto curioso perché è il nuovo film con Russell Crowe, ma soprattutto è di Paul Haggis. Paul Haggis è un grandissimo sceneggiatore che a un certo punto è passato anche alla regia, ha fatto un paio di film da regista, tra cui Crash, che era abbastanza noto. Lui ha sceneggiato il Casino Royale, lo 007 Casino Royale, e aveva sceneggiato anche Million Dollar Baby, quindi uno che sa fare tutto, dall'azione al drammatico, e insomma, adesso fa il regista e sono molto molto curioso. Allora, World Invasion esce il 22 di aprile. Il 27 esce Thor. Vabbè, no? Ce ne possiamo andare, Vasquez? Direi di sì, che io devo andare da Danielone a cena. Da? Danielone a cena. Danielone? Danielone. Lo saluti anche se non lo conosco. Uno che offre la cena è sempre meritevole di saluto. Ah, beh, certo, ma è anche bravo a cucinare? Lui sostiene di sì, io non ho motivo per dubitare. Certo. Vabbè, grazie. Mi è stato detto che è un fardello, un nuovo fardello in casa. Sì, ho preso un animale. Tu che sei sempre, insomma, così solitario, così lupo, sì, della notte. È così, vabbè, ma è per poco. Okay. E senza impegno. Te lo auguro. Senza impegno, questa è la cosa importante. Grazie Vasquez, a venerdì prossimo, sempre ammesso e non concesso che vada tutto bene, grazie. Senz'altro, ci ricordo a tutti quanti i podcast, che vanno sempre meglio, eh? Vanno sempre meglio. siamo arrivati a un centinaio, almeno un centinaio di download. Beh, da quando l'ho messo sul link, nel link, il link sulla mia pagina. C'è proprio nel grafico, c'è proprio un disco, schizzo. I podcast di Cellulite e Celluloide li trovate o praticamente ovunque in rete. Cioè, se cercate Cellulite e Celluloide su Google, vi escono 1000 risultati. Se li cercate su Facebook, c'ha la pagina sua con tutte le indicazioni. I podcast, per quei tre che non lo sanno, sono le registrazioni della trasmissione, cioè i file MP3 scaricabili. Li trovate pure su iTunes. Pure su iTunes. Ah, ma si possono mettere anche su iTunes? Sì, se gli hai abbinato un feed, cioè non è. Se tu metti i file della trasmissione online, punto e basta, cioè li metti là e qualcuno se li scarica, no. Se sono un podcast, cioè hanno un feed che è quel sistema per il quale se tu ma ti non abboni... devono essere musica, non ci deve essere musica. Può essere che te lo levano, però tu ci puoi provare. Provare è legittimo. Insomma, dicevo, se hai un feed che è quel sistema per il quale ti puoi abbonare e il programma te li scarica automaticamente, tu non devi fare niente. Come io uploado una nuova puntata, lui te lo scarica, allora puoi metterlo su iTunes. Grazie Vasquez, a venerdì. A venerdì. Anche noi ci salutiamo qui, grazie a tutti e a tutti. Se tutto va bene ci sentiamo lunedì pomeriggio, stessa frequenza, stessa radio. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccoglie mai sugo. Grazie, ciao.